Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. I tre assenti, Don Mariano e le figlie, seguiti fedelmente, anzi preceduti di qualche ora dall'amico Nodier, le cui premure stupivano la stessa raffinata prodigalità del principe, fece disporre, fra l'altro, una gabbietta con 6 colombe bianche sul davanzale di Elmina e pervenne a ciò mettendosi d'accordo col custode che adesso, dei 3 spensierati signori, non sapeva più quale preferire, visto che ad ogni minimo servigio brillava nell'aria una moneta d'oro. La gabbietta poi, al semplice aprirsi della finestra, per opera di un'incantata manina, anch'essa si apriva e subito le 6 innocenti creature si sarebbero alzate in un volo augurale. I 3 assenti fecero dunque ritorno a Napoli. E proprio la presenza di Nodier, per quella felice devozione alla famiglia di cui tutti adesso erano ospiti, e la fantastica prontezza e abilità di cui dava prova in ogni minima circostanza che chiedesse l'apporto di una mente pratica, proprio quella presenza si faceva sempre più preziosa agli occhi di Don Mariano, piuttosto malandato nell'animo, e agli occhi dei suoi amici, vagamente intimiditi dall'incontro con un sì gran numero di novità come quelle che presto si offersero alla giovanile curiosità degli stranieri, i quali si erano appena trasferiti dal Cappello d'Oro alla casa del guantaio. Su questo Don Mariano non aveva voluto sentire ragioni contrarie al piacere dell'ospitalità. La casa era grande e a disposizione di ciascuno era stato messo un piccolo appartamento fornito di ogni comodità con l'aggiunta di un domestico personale, che già l'intero palazzo del Pallonetto era aperto ad essi come più intimi e cari della famiglia. Giunsero visite di lutto e rallegramenti, strano ma fatale contrasto in quelle occasioni in cui la tristezza e la felicità si congiungono e le notizie relative a un doppio avvenimento si spargono e volano dovunque. Visite da tutta la nobiltà e il commercio partenopei. Vennero a gustare nei bei salotti rosoli e caffè, confetti e gelati, oppure la più squisita cioccolata allora di moda, in finissime tazze decorate con scene di danze e feste campestri, e intanto a esaminare, con vari gridolini ammirati e inchini bugiardi, gli ospiti francesi, a conoscere gli amici francesi, distinti come tali solo per la lingua da essi parlata. Di altro non erano imputati, essendo anzi il più vecchio di essi imparentato con i Brabante. La confusione di nomi e paesi, data la poca conoscenza in Napoli dei Paesi Bassi, era spiegabile. Ovvia anche perché il più caro al cuore, il più esibito, se così si può dire, senza offendere la dolcezza e il grado dei sentimenti, fu in ogni occasione Alphonse Nodier, che parlava insieme quasi miracolosamente, dato il poco tempo che era a Napoli, napoletano e francese. Così pure da parte di Elmina o Adelmin, benché già ufficialmente fidanzata a Dupré, vi era per Nodier, il grasso e affettuoso mercante di Liegi, una indiscutibile, evidentissima predilezione. Alphonse di qua, Alphonse di là. Neville osservava tutto. In quegli incontri segnati da qualche gravità, Una gravità maggiore avrebbe dovuto esservi, pensava, per il recente lutto, ma non c'era, e da una più che giustificata esaltazione per il matrimonio artistico, come lo chiamavano, e non gli sfuggiva, con una stretta al cuore, che Dupré sembrava portato in ballo come un bambino per bene e molto caro, ma nulla più. Il vero eroe degli eventi era per tutti Nodier. L'ultimo giorno trascorso da quel problematico, a dir poco, fidanzamento, e il tempo si era messo indubitabilmente a freddo e pioggia, e ciò rendeva meno facile la legittima felicità degli animi, Neville, approfittando del fatto che Dupré aveva accompagnato a Posillipo per una visita a una casarella che una zia voleva lasciar loro, la fidanzata e il suocero, si trovò con Nodier nell'appartamentino di questi, in un'ala di quel palazzo che solo da qualche giorno aveva visto diradare la folla importuna delle visite. Anzi, quella mattina non c'era proprio nessuno, i due erano soli. Il principe provava una certa muta tristezza. Il vento di mare era là, vicinissimo il mare, soffiava su Napoli, sulle finestre batteva uguale la pioggia. Sulla mensola del caminetto eravi il ritratto in miniatura di una bellissima creatura, più giovane di una rosa e più poetica di un uccello. Una bimba di forse 6-7 anni, con grandi occhi e lisci capelli dorati, intenta a leggere in un suo libricino dorato aperto sulle ginocchia. Indossava una leggera tunica di pallido colore, ma non così lunga da coprire le caviglie, e mostrava infatti due sottili piedi di un bianco rosa, scalzi. Gli occhi, bene aperti e assai belli, di un trasparente grigio, non seguivano però il testo. Ella sembrava guardare in sé, con rassegnata tristezza. «Che bella creatura! Ma non l'ho vista prima di questa mattina. Questo ritratto fino a ieri sera non c'era», esclamò Neville, prendendolo tra le mani come fosse una creatura dell'aria, quasi la medesima da cui, come il povero Dupré, anche lui era disgraziatamente dominato. «Sì, non c'era», commentò semplicemente Nodier. «Credo sia un dono che Don Mariano intende fare a ciascuno di noi. Ne riceverete, penso, uno uguale anche tu e Albert, in segno dello stretto rapporto d'anima che si è stabilito da poco tra noi tutti». Neville, in altro momento, avrebbe reagito vivacemente a quell'asserzione. Egli non era d'accordo sulla qualità spirituale del loro rapporto. Era stata cosa indotta piuttosto dalla sciocchezza del suo protetto e anche dalle circostanze che si erano disposte tutte, quasi malignamente, in circolo, per favorire quella fatale sciocchezza. Ma in quel momento era grandemente, quasi dolorosamente interessato all'immagine angelica della bimba della miniatura, racchiusa nel medaglione. «Vorrei sapere chi è la fanciulletta qui raffigurata», disse. «Un'altra figlia di Don Mariano, forse, che è deceduta bambina?» «Non ne so nulla, non posso dirti nulla, forse è così, però la coloritura mi sembra assai antica, si tratterrà di un gioiello di famiglia», rispose Nodier. Lasciando il casuale argomento, passarono a parlare d'altro, e ben presto, la cosa stava molto a cuore a Neville, del segreto e mistero di quella pronta adesione di Elmina alla scelta effettuata dal padre, a cui lei aveva soltanto obbedito, di un matrimonio con lo scultore, di cui ignoravano ancora lo stato reale dei beni e soprattutto della vertigine che sembrava aver preso il guantaio nel progettarlo. Di Albert, in quei momenti, non si sapeva quasi nulla. Il principe vedeva quindi in quella decisione una grande ansietà di sbarazzarsi al più presto della figlia, o forse di metterla al sicuro. Però anche la prima di queste ipotesi, data l'adorazione che egli aveva per lei, non appariva molto fondata. Neville mostrava così chiaramente che il suo animo e la sua ragione soprattutto non comprendevano, stentavano anzi, ad accettare come veramente spiegabile quella decisione di Don Mariano di affidare la figlia all'infatuato straniero. Sì, non contestando questa obiezione, quasi rassegnato, il mercante. Ammetto che anche per me vi sia stata una grande emozione. Ho provato una vera sorpresa, caro mio, ma poi mi sono detto. Ho guardato intorno quella grande casa, quella vecchia sposa morente, e ho capito che Don Mariano non era soltanto oppresso dalle sue ricchezze, ma anche da innumeri delusioni che non rivela mai. Hai notato che dei figli sono 10 in tutto, oltre Teresa ed Elmina, tutti lontani e ben sistemati, nessuno si è presentato o si è fatto rappresentare da un qualche messaggio affettuoso? Eppure, della malattia della madre erano certamente a conoscenza da tempo. Più strano ancora, nessuno ne ha parlato, né ha fatto cenno alla loro assenza, come se una loro presenza non fosse dovuta affatto. Oppure questi giovanotti non esistessero. Secondo me vi è un contrasto non lieve tra Don Mariano e i suoi figli, forse a causa della divisione, per quanto molto formale, tra i due coniugi. Egli, su quei giovanotti, non conta per una qualsiasi assistenza alle sorelle. Di qui l'ansia di maritare subito almeno la maggiore delle due, cui poi potrebbe affidare la sorella minore. «Di chi poi sarà la colpa di questa divisione?» osservò sottovoce, come per evitare che Nodier lo udisse, il malizioso e sempre malpensante principe. E infatti Nodier non sentì, proseguendo. «Vi è tra quei due, padre e figlia, un rapporto quale raramente si vide tra due congiunti di una diversa generazione. Nessun ordine gerarchico, come avrai notato, ma una quasi religiosa, reciproca devozione. Essi si corrispondono in silenzio, puntualmente, come lancette di uno stesso orologio. Per lei nulla è più bello che obbedire a suo padre. Per suo padre nulla supera la felicità di progettare il bene di Elmina. L'altra sorella, la Gaia Teresina, è figlia naturale di Don Mariano, sentì dire... gettò lì con noncuranza Neville. Suppongo di sì, nulla di male del resto, con una specie di sorrisetto tra impensierito e imbarazzato il mercante. Aggiunse, mi dicono che Napoli non eccella nei buoni costumi, ma questo, mio caro, sono sciocchezze. La vita è poco ordinata in genere, dovunque, se pensiamo che la morale debba identificarsi con un certo ordine. Neville qui non batté ciglio. La sua vita era stata sempre afflitta dalla mancanza di un vero ordine, se non mondano, e non gli conveniva atteggiarsi a maestro. Perciò si limitò ad ascoltare quanto Nodier, sempre sentimentalmente disposto al bene, non si peritò di aggiungere. Don Mariano travede e trema per questa sua creatura. Ecco una spiegazione, se fosse necessario, del suo comportamento, a parte il fatto che Alberta è quell'angelo che sappiamo, e non tocca a noi farne l'elogio, ispira fiducia e sentimenti di gioia in chiunque. In quanto ad Elmina, la sua bellezza e bontà sono sotto gli occhi di tutti. Della sua obbedienza filiale, quale altra garanzia di un perfetto ruolo di moglie, non ci sono parole per sottolineare la virtù cristiana. Suo padre per lei è tutto, è in cima a tutte le devozioni, anzi, quasi in cima, il luogo più alto essendo quello tenuto da Sua Maestà Dio Guardi. «Sua Maestà?» chiese l'allibito Neville. «Per caso frequentano la corte? Sono stati qualche volta a Caserta?» «No, e neppure la povera Brigitte, benché le sue ascendenze, come forse sai, ma resto da confidenza, lo avrebbero giustificato. Mai si recò là in tutta la vita. Non diciamo di Elmina, riservata e superba come sempre, ma nonostante qualche disappunto con la madre, mi dicono, fu e resta legittimista nell'animo. L'autorità del re ha per lei la forza del sole, prima il re, poi suo padre, in ultimo il matrimonio. Purtroppo, caro Neville, tu, uomo di mondo, non puoi comprendere. Neville, invece, aveva compreso e non si trattenne più. Ingenuo Nodier! Gridò quasi. Il matrimonio non può venire per ultimo. È un falso al quale vedo che ti presti. In quanto al legittimismo o il suo contrario, come mi consta, non ha importanza, perché è un falso anche questo. Come non vedi che la fidanzata del nostro infelice Albert è rustica e ignorante, malgrado i suoi mesti sorrisi, come una capra? Non c'è un libro in questa casa, tranne, ecco, quello raffigurato nella miniatura della bimba morta. Non c'è un quadro, non c'è un segno che i pensieri degli uomini e i misteri della natura siano mai stati lontanamente percepiti o tenuti in qualche conto. E tu mi parli di legittimismo. Un legittimismo da villaggio, ovviamente. Odiano secondo te la rivoluzione e probabilmente Bonaparte, per quanto udia affermare il contrario. Pregiudizio e denaro è tutta la loro morale. Mi dispiace per Don Mariano, al quale ti confesso mi sento legato da una grande simpatia, ma non parlarmi di Elmina e delle sue preferenze, per così dire, politiche. Non dirmi per caso che è una girondina, non posso non ridere. Neville, come si vede, nell'ira parlava sempre a vanvera, e quel girondina, applicato alla giovanetta che aveva gettato il cardillo al gatto, fece spalancare gli occhi a quel grosso bambino che era Nodier, il quale così rispose. «Non parlare così forte, Ingmar, per carità, che non ti sentano i domestici. Questa è una casa amica, di scarsa nessuna cultura, convengo, ma di persone dolci e reprensibili. Hai visto come hanno accettato Albert senza neppure informarsi se avesse denaro, e come hanno sopportato dignitosamente il dolore che li ha colpiti, il lutto, e vedi tu stesso ogni giorno con i tuoi occhi quanto sono ospitali e cari e come fra loro si amano. Mi duole il cuore a sentire te, sempre così giusto e nobile, esprimerti in questo modo». Neville adesso si vergognava del suo scatto, che non ignorava da quale ferita o forse delusione provenisse, ma non della sua indignazione, che restava, per quanto addolcita dal senso di una fatalità e anche dalla involontaria accettazione della propria natura affettuosa e della bontà che rifluiva sotto tutte le cose. Non avrebbe dovuto esprimersi così, lo riconosceva. Nel contempo gli pesava non aver detto il peggio. Avrebbe voluto parlare con Nodier chiaramente di quanto appreso dal duca, le origini servili e cortigiane, non dunque vere ascendenze nobiliari, di Brigitte Helm, e quindi la volgarità e ambizione triviale di tutto il lato femminile della famiglia. E si poteva poi escludere Elmina con la sua superbia ignoranza? Ma tacque definitivamente, o almeno in tempo, meditando il rimprovero di Nodier, ricordando non solo di essere ospite di queste persone, i cui comportamenti non approvava, ma anche di essere venuto a conoscenza di quei fatti segreti della casa, che biasimava, attraverso un sistema di indagini che improvvisamente gli apparve molto discutibile, e sentiva ora uno scontento di sé molto simile alla vergogna al solo ricordarlo. Cambiò quindi bruscamente argomento. «Ti sei lasciato andare a promettere qualche sostegno al nostro Albert?» egli domandò a Nodier. Credeva di averne un assenso. «Nulla assolutamente», rispose il mercante con la massima prontezza, «e vorremmo aggiungere candore e forse irresponsabilità, ma non giudichiamo volentieri. Anzi, volevo sempre dirtelo e me ne è mancata l'occasione. Loro lo preferiscono proprio così. Elmina, come tu sai, ed Albert per fortuna è indifferente alla situazione, è ricca in modo da far paura. Potrebbe comprare le fiandre. ma sembra esservi in lei di ciò un fastidio, tanto da far supporre che, ove non ti avesse saputo uomo facoltoso, avrebbe accettato, in obbedienza a suo padre, anche te. A Neville parve fermarsi il cuore. Solo un momento dopo comprese quanto Nodier aveva inteso dire dell'atteggiamento dei due e soprattutto di Elmina davanti alla ricchezza, ma restava scettico. Era sicuro che non solo Don Mariano, ma anche la ragazza fossero gente altamente interessata al denaro. Lo si capiva dal fatto che non lo nominavano mai, per i veri ricchi è tabù. Su ciò era impietoso, come sempre, e in qualche modo incosciente nei propri riguardi. Ma era anche vero che egli si comportava davanti al denaro come la notte davanti alle sue stelle, o una campagna di meli davanti alle sue mele. Le sue dita grondavano di luci fatate, ma in realtà Neville vi era estraneo. Vedremo in seguito se ciò era colpa o rara fanciullaggine. Vi fu una pausa in cui si sentì la pioggia scrosciare quasi dolorosamente sui vetri della stanza. Egli, fattosi silenzioso, si chiedeva se una donna che sposi un uomo per denaro oppure, semplice insostenibile ipotesi, per odio al denaro e si regoli comunque sempre secondo la volontà i progetti assolutistici del suo genitore, sia una vera donna o non sia una schiava. Davvero Elmina non trovava grazia agli occhi del signor di Neville, ed egli concluse tra sé che non avrebbe voluto essere al posto di Albert, per nessuna ragione, mai. Thank you.